Grego. Non mi piacete neanche voi, quindi diamoci del voi. Se non oggi ve lo avrei comunicato prima o poi. Meglio chiarire le cose senza andare fuori, senza finire coi fuori nel retro di una Rolls Royce, senza finire coi fiori al verano a prima porta. La mia musica si esporta, produzione poliglotta. La tua è morta e può andar bene per le sagre fuori porta. Apri lo show del Piotta, topo Gigi e Leo Gullotta. Gioia, se la carriera ti va storta, poco importa la tua donna. Nel carrera altrui farà ancora la porca coca nella vena orta. Barattata ti fa fare un giro in giostra, se gli fa dare una botta. C'hai le corna, io lo scettro, la corona su al di sopra pure sotto. Il 30% di forma fuori classe come il capitano della S Roma. Qui finisce prima strofa, ritornello inizia ora. 30% della forma, ti mandiamo in coma. La tua produzione stona, il tuo disco si storna. Battaglione d'azione, non perdiamo posizione. Il sole sorge all'orizzonte, leone col sole in fronte. Sono atleta campione, sono atleta campione. Sono atleta campione, sono atleta campione. Sorge all'orizzonte, atleta campione. Sorge all'orizzonte, atleta campione. Il sole sorge all'orizzonte, illumina il monte. AK-47 pronte per l'irruzione. Acchiappa la cacciagione in qualunque stagione. Lady di televisione, occhiando l'uomo in prigione. Piccione viaggiatore, piccione ed autore, topo che sa volare, resta in piazza a scroccare. Piccone al molare, non c'è nulla da fare, non c'è nessun affare, lascia stare le barre. Atleta alza la barra, sempre più alta hanno tutti la bava. Chi mi vuole alla sbarra come super filagra, super la figa larga, superare il pirata per la rara del mare. Non puoi farci del male né al morale o alle gambe, combattente immortale come Christopher Lambert. Portamento immorale, sesso anale, collane insieme a Paola Barale. Sono Aquila Reale. 30% della forma, ti mandiamo in coma. La tua produzione stona, il tuo disco si storna. Battaglione d'azione, non perdiamo posizione. Il sole sorge all'orizzonte, leone col sole in fronte. Sono atleta campione, sono atleta campione. Sono atleta campione, sono atleta campione. Sorge all'orizzonte, atleta campione.